English Bit di Giulia Crivelli. To fail. Rio projects fail to reach the finish line. I progetti di Rio non riescono a raggiungere il traguardo. Il Wall Street Journal titolava così un articolo uscito prima dell'inizio delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il cui costo per le casse brasiliane è stimato in 12 miliardi di dollari. Il riferimento è alle preoccupazioni, vedremo nei giorni prossimi quanto fondate, che molte infrastrutture olimpiche non siano state completate per tempo. La parola che ci interessa è fail, dal verbo regolare to fail, fail. Failed, che significa in senso lato perdere, essere sconfitti, sbagliare. Finish line invece è il traguardo, mentre start line è la linea di partenza. Entrambi sono termini molto usati nello sport, meno in senso figurato a differenza dell'italiano. Il quotidiano americano ha scelto finish line quindi soprattutto per l'immediato riferimento alle competizioni e ai giochi olimpici. Sono molte le cose che possono fallire. Many diets fail because they are boring. Molte diete falliscono perché sono noiose. Oppure, I failed in my attempt to persuade her. Letteralmente, ho fallito nel mio tentativo di convincerla, che in italiano suonerebbe meglio come il mio tentativo di convincerla è fallito. Il verbo è usato anche per indicare una bocciatura scolastica o di un test e dal punto di vista grammaticale è molto versatile. Si può dire infatti sia he failed his driving test, non passò l'esame di guida, sia the examiners failed over half the candidates, gli esaminatori bocciarono più del doppio dei candidati. Un'altra sfumatura riguarda l'uso di fail in senso medico. Her eyesight is failing, la sua vista sta peggiorando. Oppure, his last months in office were marred by failing health. I suoi ultimi mesi in ufficio furono caratterizzati da una salute sempre più cagionevole. Dal verbo al sostantivo. Failure, il passo è breve. She's still coming to terms with the failure of her marriage. Sta ancora cercando di accettare il fallimento del suo matrimonio. Oppure, the success or failure of the plan depends on you. Successo, il fallimento del piano dipendono da te. Notiamo qui che in inglese si dice to depend on e non to depend from, da, come succede invece in italiano.